Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Di solito i media vedono molto il sasso e poco il macigno, e il macigno in questione è un possibile bubbone dalle conseguenze imprevedibili. La Lega al Nord ha vinto e stravinto in Veneto. Qui il problema è tutto interno al movimento leghista. Il rapporto non amichevole tra la sponda lombarda e quella veneta. Una domanda può rispondere sul futuro del movimento. Dei primi 20 dirigenti nazionali della Lega, quanti sono veneti? Ora il federalismo diventerà fiscale, non è più rinviabile, pena scontare dazio la prossima tornata. Ma col PDL e soci del Sud, come la mettiamo? Lettera firmata. Venerdì scorso, nel quartiere Pigneto a Roma, un vigile ha fermato un venditore di cianfrusaglie di probabile nazionalità indonesiana. Il poveretto ha reagito e nel cercare di scappare ha assalito il vigile che alla fine lo ha bloccato. Nel frattempo è sopraggiunta la figlia del venditore, una bimba sui 10 anni, che ha cominciato a piangere disperatamente vedendo il padre mentre veniva bloccato con la forza. Sono intervenuti molti italiani, abitanti del quartiere, che hanno preso le difese del clandestino, spiegando al vigile che era un bravo uomo e che la figlia era conosciuta come una bimba diligente e pulita che frequentava la stessa scuola dei loro figli. Non c'è stato nulla da fare e anzi, vedendosi pericolosamente accerchiato, il vigile ha chiamato rinforzi e presto è stato supportato da vigili e carabinieri che hanno proceduto all'arresto del poveretto che è stato portato via assieme alla figlioletta in lacrime, mentre le sue povere mercanzie erano finite tutte a terra e si erano perse per la via. Certo che il vigile forse avrebbe dovuto applicare la legge con maggiore discernimento, ma chi è il vero colpevole della triste vicenda? Io sono convinto che la colpa non sia della Bossi Fini, ma dei molti clandestini che delinquono, spacciano droga, violentano e commettono altre nefandezze. Purtroppo, ancora una volta, il giusto paga per il peccatore. La gente del quartiere è accorsa in difesa della bambina e del padre, malediceva Berlusconi e la Bossi Fini. Non è giusto né razionale dare la colpa a chi cerca di difenderci tutti, anziché prendersela con i veri colpevoli che, ripeto, sono i clandestini che delinquono. Ferdinando. Egregio direttore, mi auguro veramente che abbia ragione lei nel valutare la Lega Nord come partito concreto e dall'indirizzo politico pratico. La mia sensazione è piuttosto di una discreta carica ideologica, almeno nel rapporto con i diversi, che nel corso degli anni si sono trasformati dal potere romano e dal meridione agli stranieri immigrati. Una carica ideologica che ha mutato il comune sentire delle mie zone della provincia cuneese. Una ventina di anni fa i primi immigrati non italiani venivano giudicati alla stregua di quell'immigrazione meridionale cui eravamo più abituati. Persone strane, magari chiassose, però valutate in base al proprio lavoro. Il gran lavoratore era sempre apprezzato. È un metro di giudizio comunque limitato, parziale, ma che ha il vantaggio di poggiare non su ciò che si è irrevocabilmente o sulla propria origine, ma sulle proprie scelte e comportamenti. Il clima è cambiato, a mio parere in gran parte per responsabilità della propaganda leghista, che ha recuperato comuni discorsi da bar, ma li ha rafforzati e assolutizzati. Ecco allora che lo straniero ormai è fonte di disturbo, ladro e sfruttatore. Se poi lavora, toglie il lavoro agli italiani. Non importano le analisi che smentiscono questo luogo comune. È abbastanza generico da fare presa e portare voti. Per questo lo si rafforza e si è ormai imposto. Il problema è per la prossima generazione. Nella scuola dell'infanzia frequentata dai miei figli, il 30% circa degli iscritti è straniero. I miei figli considerano nomi come Aminata, Salah e Min Zong più normali di Luciano o Ugo. Nella scuola hanno trovato un ambiente che valorizza le particolarità di ognuno, che aiuta ad accogliere e rispettare le differenze. Ma i compagni dei miei figli non sopporteranno, come i loro genitori, di non avere accesso alle cariche o ai lavori pubblici, di essere esclusi da determinate politiche sociali, da concorsi e opportunità, per via del luogo di nascita dei propri genitori. Ho la sensazione che si stiano gettando i semi di forti tensioni sociali, proprio là dove le differenze potrebbero diventare germe di arricchimento. Tengo per me il giudizio sul nuovo governatore del Piemonte, giudizio che mi sono formulata sentendolo parlare di immigrazione e di rapporti con la comunità europea. Mi auguro che fossero battute da campagna elettorale e che nell'esercizio del governo davvero si mostri quella capacità di concretezza e pratica che lei nota nella Lega. Sarò felicissima di dover ammettere di essermi sbagliata, ma questi ultimi esiti elettorali, come anche il frutto del lavoro sul territorio della Lega, mi paiono in prospettiva angosciosi per il clima nel quale i miei figli cresceranno. Angela. Cara Angela, partiamo dai fatti. Il partito di Umberto Bossi è l'unico vincitore delle ultime elezioni e ha vinto raccogliendo voti e consensi in modo trasversale, nella classe operaia così come nel ceto medio. E anche in questo il superamento dei tradizionali schemi ideologici. La Lega può essere considerata un partito popolare, capace di raccogliere insieme le richieste e le proteste. Un partito che ha saputo dimostrare nelle amministrazioni locali dove ha governato una sostanziale efficienza. È inoltre un partito che raccoglie i frutti di quel diffuso disagio che si è in parte espresso anche con l'astensionismo. Quello dell'immigrazione resta indubbiamente un punto importante e anche qualificante. Le prese di posizione massimaliste di alcuni esponenti della Lega sono comunque inaccettabili. C'è bisogno di apertura e solidarietà in un quadro di progressiva integrazione con politiche attive di programmazione e di sostegno. Su questo tema, i nuovi governatori della Lega in Veneto e in Piemonte sono di fronte a una grande sfida, quella di governare con realismo e, lasciatemelo dire, anche con umanità, augurandomi che questa sia una speranza e non un'illusione, come si potrebbe temere. Nelle scorse settimane è circolata una mail che riportava un testo attribuito ad Elsa Morante che suggeriva un appetitoso confronto tra Mussolini e Berlusconi. Michele Santoro, nel filmato di apertura di Rai per una notte, ripropone in formato video un analogo parallelo tra i due personaggi, facendo uso di immagini d'epoca. Poco importa che il testo attribuito alla Morante sia frutto di un accorto rimaneggiamento, somigliante nella sostanza ma alterato quanto basta per raggiungere il suo fine. Credo che a queste forme di comunicazione appartenga il solo merito di eccitare i furori contrari di entrambi gli schieramenti, in grado di convincere solo chi è già convinto, e identicamente alla dirigenza politica, rifletta un'incapacità, anzi un rifiuto, ad un dialogo basato sull'analisi dei fatti, a vantaggio di un confronto reciprocamente lesivo, sostanzialmente improduttivo, e che ha come grave conseguenza quella che Luca Ricolfi chiama l'arte del non governo. È un gioco facile, troppo facile, perché acquisti la dignità di riflessione politica o anche solo di abilità retorica. Lettera firmata. Altro che paese allo sfascio, altro che Berlusconi finito, altro che tira un'altra aria. Il grido al lupo non spaventa nessuno. E anche per quella fettina di magistratura così attiva e pignola nel cercare a tutti i costi qualche cavillo, qualche impedimento che possa frenare o infangare i rappresentanti di questo governo, questo voto rappresenta una sconfitta e una lezione. Che certe procure si dedichino più a incastrare i delinquenti, quelli veri, e non sprechino risorse ed energie contro chi alla fine rinasce sempre dalle macerie sotto cui cercano di sotterrarlo. Ora che per 3 anni non si voterà più, c'è da prevedere, visti i comportamenti precedenti, che si materializzerà qualche altro scandalo, che si cercherà di mettere zizzania fra la Lega e il PDL, che si spererà nella rottura, nella crisi, e guarderanno sempre la pagliuzza negli occhi degli altri, senza vedere la trave che sta nei loro. È una strategia scontata, ormai noiosamente prevedibile, e oltretutto negativa per chi la mette in atto. Ma la capiranno? Giulia. Gentile Radio 24, si fa un gran parlare dei costi della politica, discorsi bollati da taluni come populisti, che in genere hanno come obiettivo polemico i maggiori organi rappresentativi dello Stato, Camera e Senato, l'elefantiaca struttura del Quirinale e la galassia di enti utili, meno utili o perfettamente inutili. Tuttavia, vi sono degli enti certamente utili e meritori che non appaiono mai o quasi mai in queste analisi. Mi riferisco alle soprintendenze, organi nominati e non eletti, che godono di una serie di privilegi, come ad esempio, mi giunge voce, il diritto alle tanto famigerate auto blu. Chiunque abbia avuto a che fare con i meccanismi burocratici di tali enti può affermare con ragione che sono fagocitatori di soldi e di tempo. Dai numerosi banchetti alle brochure, zeppe solo di nomi e quasi mai di contenuti, che vengono distribuite in occasione di eventi di vario genere, alle scorte a loro assegnate in caso di gite. Va sottolineato inoltre un considerevole atteggiamento flemmatico della soprintendenza, a volte per mancanza di personale, a volte per questioni burocratiche, a volte non si sa per quali motivi. Atteggiamento che è causa di ritardi e intoppi nei lavori di cantiere e di studio. Bisognerebbe inoltre capire perché i bilanci non vengano pubblicati, come accade invece per la Camera dei Deputati. Come mai, tra le tante riforme che sempre vengono ventilate e mai realizzate in questo strano paese, non vengono mai citate quelle relative alle soprintendenze, i cui compiti a volte appaiono oscuri e mutevoli da regione a regione? Matilde e Roberto. Ho ascoltato con grande soddisfazione la vostra trasmissione nella quale affermavate l'importanza delle persone non più giovanissime costrette a lasciare il lavoro quando sono ancora piene di energie e di voglia di fare. Io mi sono inventata, dopo la pensione, corsi ripetuti di bridge, iscrizione a corsi di ginnastica, conversazioni in inglese e costituzione di un comitato di quartiere per la salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita. La vostra trasmissione mi ha ridato fiducia. Non tutti pensano quindi che le persone anziane siano solo pronte per sedersi sulle panchine ad osservare gli altri. Ludovica. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.